Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Guardo il sole che sbuca dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora buongiorno, eccoci qui alle 15 in punto, 15 e una trentina di secondi, parte e inizia la conta di questo 18 di dicembre. Siamo in finale di quest'anno, di questo 2019, che è così, se è il secondo decennio del 2000, come direbbe, come passa il tempo. È già il secondo decennio, quindi si conclude il secondo decennio di questo nuovo secolo, nuovo millennio, come preferite, e inizierà il terzo, la terza decade, il terzo decennio. Vediamo se riusciremo a, non conviene dire, cerchiamo di metterci in moto sempre con le scarpe ben allacciate e di rigettarsi nelle strade, nelle piazze, laddove avviene il sociale. La realtà cambia o non cambia lì, nelle strade, nelle vie, nei posti dove i nostri piedi attraversano. E dunque, e difatti l'avete visto un po' nel mondo, dopo un po' di stasi troppo lunga e molto preoccupante, a vario titolo, con varie intenzioni, le persone hanno cominciato a scendere in massa nelle piazze, nelle strade, e ricominciano a mettere sul terreno appunto i propri interessi, i propri desideri, i propri bisogni, che comunque è un fatto, si potrà essere d'accordo o non d'accordo, ognuno la pensa come vuole. Premessa però, è chiaro che i movimenti sempre sono stati e sempre saranno compositi. Un movimento non è definibile a priori, perché appunto è un insieme di cose molto diverse, e che poi può darsi, sì, diciamo, può darsi, sicuramente poi subisce una selezione dai fatti oggettivi della realtà, dai comportamenti soggettivi interni, e quindi si incammina verso una direzione, ma può essere quella, un'altra ancora, le tantissime direzioni che può prendere, perché appunto non c'è un destino sicuro, non c'è una verità, diciamo, futura da arrivare. C'è un futuro da conquistare, questo sì, e lo si può fare se appunto si sta dentro le realtà in movimento. Comunque questo appunto lo stiamo vedendo, sta succedendo un po' in tutto il mondo, di grandi masse che scendono in piazza, recuperano le strade, e comunque sia, credo che, secondo me, è un fatto comunque sia positivo, perché rimette in moto ciò che si era ristagnava pesantemente in maniera paludosa, e che era appunto la dinamica sociale, il pensiero anche, che va presso la dinamica sociale, non è il contrario, attenzione, non è mai la dinamica sociale che segue il pensiero, è il contrario. Il pensiero, con un certo ritardo spesso notevole, elabora ciò che la realtà sociale ha messo in campo. Quindi il problema è capire ciò che dei movimenti producono, e che forse con gli strumenti vecchi non si riescono a interpretare le nuove forme di lotta, di conflitto. Sta di fatto che il conflitto è in corso di ripresa un po' in tutto il mondo. Quindi noi parliamo di carcere, e che poi sta all'interno, è uno dei punti più, più centrali dei conflitti, perché di qualunque cosa si parli, se voi fate caso, no? ogni movimento esprime nell'immediato un obiettivo, si forma su una serie di obiettivi immediati, poi li cambia strade facendo o ne acquisisce altri e così via. Bene, di qualunque cosa si parli, è chiaro che il carcere rappresenta un punto. Si parla per esempio di repressione, c'è il carcere dentro, ma anche se si parla di provvedimenti legislativi, c'è sempre il carcere, perché la legge ha come diceva qualcuno, no? La dea bendata ha in un mano la bilancia della legge, della giustizia, e nell'altra la spada, perché la legge poi ha bisogno della repressione per essere rispettata, perché sia rispettata. Questo per me è il quadro. Quindi in questo passaggio di anno che avviene, noi intanto andiamo appunto nel luogo che sostiene un po' il nostro pensare, cioè il tentativo di incamminarci su un terreno abbastanza velocemente, poi non dipenderà solo da noi, ma di incamminarci su una strada che porta all'abolizione del carcere, al superamento del carcere, del sistema penale, della pena, del castigo, della punizione, della sanzione. Ecco, queste cose vanno superate. Poi vedremo perché parliamo sempre di questo, sia nella concretezza, cioè la protestano perché manca questo, ma anche nella ragionando appunto sulla questa realtà del carcere e di chi lotta contro, in primo luogo le persone imprigionate, e ovviamente cercando di vedere come si può costruire un percorso anticarcerario, contro il carcere, concretamente, cioè di abolire, levarcelo di mezzo. Per carcere si intende tutto quello, perché poi uno dice il carcere si è espanso, in realtà è sempre stato così. Ad esempio oggi uno parla dei CPR, cioè tutti i luoghi di segregazione che vogliono incapsulare, incarcerare il movimento migrante che si è sviluppato in questa fase storica e che non c'è verso di fermarlo, è così, sono fenomeni e dinamiche incontrollabili. Anche quelli sono carceri, come non è una novità, ma anche quando è nato il carcere c'erano tante altre cose, c'erano appunto i manicomi che poi si presentano oggi sotto altra forma. C'era per esempio il carcere, è nato come luogo maschile di detenzione, perché anticamente in quasi tutte le culture si riteneva che la donna non avesse la libertà di poter commettere un reato, cioè non aveva molte religioni dicevano che non aveva nemmeno un'anima, compresa questa nostra religione, poi si è corretta ovviamente dopo qualche millennio, e soprattutto non aveva il libero arbitrio, non aveva la possibilità di trasgredire una legge. La legge viene dall'alto, sicuramente, qualunque sia quest'alto, e la donna non ha la capacità di dire no, infrango la legge, e allora non andava bene il carcere, e c'erano altre forme. Per esempio qui in ambito del potere, diciamo, Vaticano, a Roma ce n'erano tantissime, ci sono ancora le reliquie da qualche parte molto interessanti, si chiamavano i conservatori della virtù, cioè mettevano le donne, le mettevano chiuse in un posto ovviamente controllate dalle monache, e però non le chiamavano carcere, perché non erano luoghi dove correggere o punire chi aveva trasgredito la legge, perché appunto le donne non potevano trasgredire la legge. Allora si trattava di tutelare la loro virtù, cioè impedendogli di vivere, chiaramente, no? Perché se vivevano potevano inciampare nella trasgressione della virtù. Quindi i conservatori della virtù, gestiti appunto dal Vaticano, dalle strutture ecclesiastiche, dalle monache in primo luogo, però gestite al suo vertice c'era un vescovo. Bene, queste molte stanno ancora al centro di Roma, le vestigie, ed è questo per dire, no? Quante cose ci stanno scritte nella storia della storia, anche nella storia del carcere c'è scritta un po' tutta la vicenda delle società e delle persone che saremmo noi poi. Bene, tra un attimo iniziamo il percorso appunto di questa trasmissione. Thank you. Allora, allora 15:09, quasi 10. Dunque, diciamo, questa è l'ultima trasmissione di questo 2019. Oggi è 18 dicembre, quindi a ridosso della fine dell'anno. Ricordiamo che per fare un po' il punto di quello che è successo in quest'anno del sistema repressivo carcerario, ci si vede il 31, come ogni anno ormai da 20 anni, il 31 dicembre, quindi l'ultimo giorno dell'anno, dalle 10 in poi, fino a che c'è luce, in genere fino alle 4 del pomeriggio, facciamo un presidio, come tutti gli anni, appunto, al carcere di Rebibbia. L'appuntamento lo sapete, è quello di vederci all'incrocio tra via Maietti e via Bartolo Longo. Via Maietti è quella che torna dall'incrocio, che seguendo le mura del carcere torna sulla Tiburtina. Via Bartolo Longo è quello che invece va nell'altro senso del carcere. Comunque è esattamente, è un angolo importante del grosso complesso carcerario di Rebibbia, che ha all'interno 4 istituti penitenziari, non uno solo, però in questo complesso, queste mura che circondano, all'angolo, dove c'è appunto anche la torretta canonica di tutti i sistemi carcerari, no? Di controllo delle mura, ci vediamo lì e musica, intercetteremo e parleremo con i familiari che vanno a fare il colloquio di fine anno con le persone detenute, portando il pacco per alleviare un po' la bruttura del 31 passato in carcere. Bene, e qui faremo anche il punto di che cosa è successo in quest'anno e quindi gli impegni per il prossimo anno. Intanto vediamo che cosa è successo. Partiamo dal dato più drammatico: i morti in carcere. Fino adesso il dato arriva fino al 7 dicembre, quindi manca ancora una ventina di giorni. Sono 123 le persone morte in carcere e morte di carcere. Perché il problema non è che in carcere si muore di vecchiaia, non c'è questa possibilità, perché appunto quando uno invece è molto vecchio, malandato eccetera, in genere esce. Quindi morti di carcere, di cui 46 sono suicidi. Attenzione che questi suicidi, che sono comunque sempre tantissimi, sono in una fase di crescita, perché nell'ultimo, dai primi di novembre ai primi di dicembre, quindi sono stati 7, quindi c'è stata un'accelerazione di suicidi, molti gravi, molto preoccupanti. Ed è proprio di l'altro ieri, nel carcere di Frosinone, ci sono stati a distanza di 24 ore uno dall'altro ben 2 persone che sono morte. Ovviamente, essendo appena successo, ancora si sta cercando di capire perché sono morte. Uno aveva 31 anni, quindi giovane, e l'altro 51. Di tutti e due la direzione del carcere dice morti di infarto, arresto cardiaco. Ma arresto cardiaco è il dato di fatto: quando una persona muore vuol dire che si è arrestato il battito cardiaco, è ovvio. Però perché si arresta il battito cardiaco? Ci sono mille motivi, appunto i motivi possono essere malattie, cose, insomma è un po' ridicolo questo dire morto per arresto cardiaco, cioè vuol dire, la direzione vuol dire non per intervento esterno, però può essere non persone non curate, cosa di diffusissima, oppure anche addirittura qualcosa di peggio, vediamo, bisognerebbe aspettare. I due morti sono entrambi due detenuti siciliani, non vuol dire niente, però qualche giornale, qualcuno azzarda così un regolamento di conti, perché ovviamente essendo detenuti siciliani non è detto, però di uno si dice che probabilmente poteva far parte di una banda, insomma. E questo del carcere di Frosinone, che tra l'altro nella stessa città di Frosinone, sembra un fatto strano, proprio nello stesso giorno, ieri, si aprivano un processo per altre due morti non chiarite, di cui ci stanno i sospetti che in qualche modo abbia avuto un suo ruolo la struttura della custodia. E dunque andiamo avanti. Dunque c'è stato in questi ultimi giorni dell'anno un attacco abbastanza sorprendente, che tra l'altro che però mette in chiaro il modo di pensare, chiamiamolo pensiero, anche non c'è altri, cioè, e comunque la sottocultura che alimenta alcune aree di questo del mondo politico italiano. Voi sapete che nel carcere è stata una conquista di tanti anni fa e poi regolata da una legge. Esiste la figura del garante dei detenuti, una sorta di avvocato dalla parte dei detenuti, cioè una persona che ha la possibilità di entrare in carcere e di verificare, ovviamente parlare con i detenuti, verificare se quella serie, diciamo, di diritti che spettano alla persona detenuta vengano rispettati, e quindi da quelli materiali, no? L'acqua calda, le cose che non funzionano, fino ai diritti, che ne so, i colloqui, il rapporto all'esterno, la possibilità di avere un regime meno duro, cioè tutte queste cose qui. È una sorta, c'è un po' in tutti i sistemi, perlomeno abbastanza ormai consolidati di detenzione del mondo, c'è questa figura di una sorta avvocato del carcerato che gira nell'ambiente carcerario e può vedere che cosa succede e dare un consiglio anche, oppure fare un'avvertenza di cose che... Questo esiste ormai da tempo ed è stato appunto regolato da una legge, il garante dei detenuti. Il viene nominato dalla figura, il garante dei detenuti a livello nazionale, che è Mauro Palma, un magistrato che da sempre si è battuto per i diritti e i bisogni dei carcerati, e su consiglio ovviamente delle tante associazioni che girano intorno al carcere. Bene, Mauro Palma, il garante nazionale dei diritti dei detenuti, ha nominato un certo Pietro Ioia a garante delle persone, delle persone carcerate nelle carceri del napoletano. È successo subito un pandemonio a livello di stampa, di media, perché sia Salvini e altri sempre di quell'area lì, della Lega, eccetera, si sono scatenati in critiche pesanti dicendo che non bisognava dare il titolo di garante a una persona, perché questo Pietro Ioia è stato a suo tempo detenuto. Poi ovviamente ha scontato la pena, ha fatto tutto il percorso di reinserimento, chi lo segue molto molto buono, si è sempre interessato della questione delle persone detenute, è stato in associazione eccetera, e quindi adesso da persona libera, essendo anche valido dal punto di vista delle conoscenze, è stato nominato. È successo, che Dio, non si può qua, cioè come, che cosa vuol dire questa... A parte così la mania sempre di fare campagna elettorale per recuperare voti dalla parte più retriva della popolazione italiana, però comunque c'è anche un modo di pensare che è molto vecchio, ma non vecchio di qualche decennio, ma vecchio di diversi secoli, ossia pensare che una persona condannata e quindi incarcerata per qualunque motivo rimane bloccata per tutta la vita, cioè una sorta di stigma stampato in fronte in maniera indelebile che lo condiziona tutta la vita nella sua vita, non potrà far parte appunto di alcuni, secondo l'impostazione di Salvini, secondo l'impostazione che ai tempi forse della Controriforma, ma parliamo del 5-600, quindi 500 anni fa, non un giorno, c'era questa, quelli si chiamano i secoli bui, la storia li racconta come i secoli bui, il periodo di mancanza veramente gli anni di piombo, quelli erano veramente anni di secoli di piombo, perché appunto non c'era oltre il potere, no, che teneva in mano la spada e la ghigliottina o la forca oppure il rogo, qui a Roma c'era il rogo, e chiaramente non c'era nessuna dialettica, nessuna possibilità di dibattere. È chiaro, e Non è la prima volta che una parte del sistema politico italiano in maniera così debordante, così chiaro, è la Lega, no? Però poi, quello che volevamo sottolineare, questo modo di ragionare in realtà con sfumature diverse attacca tutto il sistema politico italiano, cioè tutto il personale politico italiano, quando sente parlare di persona ex detenuta, anche se la legge italiana dice che appunto una persona fa un reato, viene processata, gli viene dato un tot di carcere, eseguito quel carcere ha sanato i conti con la società, quindi torna a riacquistare tutti i diritti che aveva perso nel momento della carcerazione e torna a essere una persona libera a tutti gli effetti. Questo dice la legge, ancor di più la Costituzione, che dice: guardate che il carcere, seppure deve esistere, perché loro pensavano di avviare un percorso di superamento del carcere, invece è successo il contrario, ma non per colpa loro, dei costituenti, dico. Tant'è vero che dicevano che il carcere deve essere soltanto un passaggio temporaneo, il più breve possibile, per permettere di rientrare nella realtà sociale da cui erano stati allontanati per questo tipo di reato. Quindi secondo i costituenti, non si perde mai, non si è mai esclusi dal consorzio sociale. Questa è una definizione del fascismo che definiva le persone detenute escluse dal consorzio sociale, cioè buttate fuori, e che non parlava di rientro. Per questo c'aveva questa impostazione, anche se poi il rientro avveniva, perché finito il carcere la gente tornava a lavorare, a fare quello che faceva, però rimaneva bollato a vita, perché su questo terreno anche il fascismo aveva ripreso dei canoni molto vecchi, appunto, che andavano indietro di qualche secolo. Però poi l'aveva corretto, attenzione, questo lo stesso fascismo l'aveva corretto, perché tra le, come dire, le persone che aderenti al fascismo, che lavoravano in questa società, molte avevano subito delle condanne per vari motivi, no? E quindi ha dovuto correggere questa impostazione del marchio indelebile in fronte alla persona detenuta, perché gli avrebbe bloccato la possibilità di assurgere anche a ruoli importanti a molte persone che facevano parte appunto del sistema fascista. Quindi in questo modo l'ha corretto. Chi non l'ha corretto invece sono i nostalgici di oggi, che è veramente penoso sentire questa d'ingegno. Tant'è vero, in molti giornali, vabbè, sul Riformista Stefano Anastasia, che anche lui fa parte, è un portavoce dei garanti territoriali delle persone detenute, e che così come anche gli avvocati penalisti, il foro degli avvocati penalisti di Napoli dice, hanno fatto una polemica molto aspra contro Salvini, dice: come si permette a calpestare così vigliaccamente la Costituzione? Perché il diritto penale è chiarissimo su questo. Il diritto penale garantista che c'è in Italia dice: una persona, dopo che ha scontato la pena comminata da un regolare tribunale, torna ad essere una persona libera e può occupare tutte le cariche che vuole. E dice: guai, questo sempre i penalisti del foro di Napoli dicono, guai a ripristinare il diritto penale del nemico, quello che individua appunto colui che commette un reato come il nemico, no? da contrastare sempre, a tenere sempre sotto l'obiettivo. Questo è quello che è successo, per te mettere, così, completare un anno devastato dal punto di vista della dignità, anche del buon senso. Gli ultimi due anni è precipitata la situazione, cioè si è riattaccato un po' al quadro del ventennio berlusconiano, dove c'era, mentre sui giornali, ma anche i deputati di questa formazione, della formazione Berlusconi, delle tante formazioni berlusconiane, richiedevano garanzia per un'area di persone che avevano a che fare con la giustizia e che erano, diciamo, nel loro giro, cioè che, con i colletti bianchi, così, quindi corruttori, concussi, falso in bilancio, i reati tipici dei colletti bianchi. Per quelli chiedevano una maggior garanzia, per tutti gli altri maggiore penalità, questo doppio registro, no? Il famoso doppio registro per il quale siamo diventati noti nel mondo. È un'immagine bruttissima, nel senso che si cerca di tutelare i potenti quando commettono un reato, invece di bastonare pesantemente i poveri quando commettono anche loro un reato. Questa è la realtà, purtroppo, dell'Italia. Allora, 15:29, ancora a questo proposito, per tutte queste, diciamo, incongruenze che sono successe terribili in questi ultimi due anni, veramente abbiamo visto, soprattutto in quest'ultimo anno, l'anno, diciamo, che sta per finire, questo e il precedente, abbiamo visto delle cose inenarrabili. Non pensavamo che appunto che tornassero indietro di alcuni secoli, alcuni. E a questo proposito, invece, alcune associazioni, poi vi leggiamo quali, hanno deciso di fare un coordinamento, quindi è nato un coordinamento, a novembre si sono incontrati, per, così dice il titolo, per una cultura costituzionale dell'esecuzione penale. Questo è il titolo di questo coordinamento. Hanno fatto una conferenza nazionale del volontariato, della giustizia e tanti altri. Le associazioni che vogliono, hanno chiesto anche l'intervento di alcuni grandi giuristi come Glauco Giostra e tanti altri, per capire che, insomma, che cosa fare per tamponare questa, così, questa caduta medievale del sistema repressivo. Dunque, le associazioni sono: il 23 novembre c'è stato questo primo incontro per che si è dato vita a questo coordinamento. Sono l'Associazione Antigone, la Comunità di Sant'Egidio, il Collegio del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà, quello che dicevamo prima, Mauro Palma, il Garante Nazionale per ora, però l'ufficio rimane permanente, la Conferenza dei Garanti Territoriali delle Persone Private della Libertà, la Conferenza Nazionale dei Volontari di Giustizia, il Coordinamento Nazionale Magistrati di Sorveglianza, l'Associazione L'Altro Diritto, l'Associazione Nessuno Tocchi Caino, l'Osservatorio Carcere Unione Camere Penali, Radio Carcere, quella del Partito Radicale, e Ristretto Orizzonti, che è una rivista fatta in quel di Padova da alcuni volontari. Questo il problema è molto importante, e non so come lo affronteranno, lo seguiremo, però per dire che è importante una cosa di questo tipo, soprattutto se si dà esattamente come dire, seguito a quello che era l'indirizzo tracciato dalla Costituzione italiana sul terreno del carcere e della punizione. L'abbiamo detto più volte, ora non voglio fare l'esaltazione, non è il mio compito, ma soprattutto non è manco il mio ideale la Costituzione italiana, perché secondo me ha molti punti di caduta. È stato un compromesso tra forze molto diverse che poi appunto hanno governato questo paese, e quindi il compromesso c'ha tutti i limiti del compromesso, appunto. E c'è per esempio questo accento molto forte sulla proprietà privata, l'accento molto forte sulla priorità della famiglia a scapito delle persone che compongono la famiglia e tante altre. Vabbè, però sul carcere è riuscito ad affermare, forse perché lo dico sempre, le persone che hanno seduto in questa assemblea costituente, molte di queste hanno fatto il carcere, in quanto antifascisti il carcere li metteva in galera o un carcere al confino, quindi sempre restrizioni e limitazioni della libertà hanno avuto. Bene, quindi avevano una certa consapevolezza e anche coscienza nell'affrontare questo tema. Hanno tracciato le linee del carcere che doveva essere il punto di partenza per un percorso che aveva il senso dell'abolizionismo del carcere. Tant'è vero che dissero: il carcere non è centrale nell'ordinamento, ma bisogna ampliare il terreno delle pene. Infatti non c'è la parola carcere. Se voi sfogliate la Costituzione non troverete la parola carcere, non c'è, perché non si nomina la parola carcere, si nomina la parola le pene al plurale. Che vuol dire la parola le pene al plurale? Vuol dire appunto le pene. Intanto sono quelle che oggi vanno sotto il nome di misure alternative, sono anch'esse pene, però non hanno la restrizione del carcere. Per esempio gli arresti domiciliari è una pena, la semilibertà è una pena, l'affidamento in prova ai servizi sociali, cioè qualunque restrizione della libertà è una pena, chiaramente, no? È una sanzione, una pena, però non prevede il carcere. Per cui loro parlano di le pene al plurale, per dire che, per invogliare il sistema politico che avrebbe di lì a poco formato concretamente, loro tracciavano le linee concretamente la Repubblica, di indirizzarsi su questo terreno. Si parlava pure di riduzione di un massimo di pena, qualcuno aveva proposto 15 anni il massimo di carcerazione per i reati più gravi, pensate un po', oggi lo danno per i reati più tenui, comunque, per dire come si è ribaltata. Vabbè, è chiaro che la Costituzione non è stata presa, c'è stata una sorta di vari colpi di stato di mano che hanno poi in qualche modo trasformato la Costituzione. Vabbè, ma a parte questo, però voglio dire, significherebbe riprendere. Poi hanno detto una cosa molto importante, questa ribadita da alcune sentenze della Corte Costituzionale fino all'ultima di qualche anno fa, cioè le persone che vanno in carcere, le persone detenute, a qualunque titolo hanno in carcere, qualunque pena hanno, non perdono la propria dignità. Questo ovviamente contrasta con alcuni regimi penitenziari, è ovvio, ma perché? Perché il sistema della giustizia oggi non rispetta la Costituzione. Per esempio il 41 bis chiaramente è anticostituzionale, ma questo l'hanno detto, lo sanno pure i gatti che attraversano la strada adesso. Però poi dicono: ah, ma poi la mafia che fa? La mafia è un fatto politico-economico, su quel terreno va battuta, se la si vuol battere, non arrestando i mafiosi in una cosca perché si fa un favore all'altra cosca concorrente. Queste cose le sanno pure i bambini, voglio dire, ma l'hanno detto poi i pentiti, ci stanno tonnellate di libri, cioè centinaia di libri in cui si analizzano alcuni studiosi ciò che hanno detto i vari pentiti di mafia, di camorra, cioè del grande crimine organizzato, che hanno detto che appunto gli arresti fatti sulle soffiate, cioè sulla delazione, spesso servivano a far arrestare alcuni per permettere di far andare su al vertice di queste bande altri. Quindi va bene, che non significa non arrestare i mafiosi, ma non è quello il terreno con cui se si batte la grande criminalità organizzata. Se si vuol battere, il terreno su cui ci si deve poggiare è quello politico ed economico, non soltanto quello della repressione. È chiarissimo questo fatto, è così, e non si può derogare da questo fatto. Però appunto quindi si deve riprendere quel cammino interrotto, anzi che non è mai partito realmente, quello appunto del carcere come passaggio temporaneo e limitato nel tempo per ritornare nella società, non quindi di esclusione, al contrario, è la definizione che dà il fascismo, esclusi dal consorzio sociale, è la dicitura che nel regolamento del 1931, regolamento carcerario, quindi fascista, nel periodo fascista, che i costituenti hanno provato a ribaltare, ma nei fatti abbiamo visto che non c'è stato ribaltamento. Chiaro, no? Io ho nominato questo racconto sul carcere che ho scritto e che sta circolando, proprio esclusi dal consorzio sociale, lo dicevo nelle presentazioni, no? Domandate ai vostri amici, alle vostre amiche, se pensano che questa possa essere una definizione azzeccata della persona reclusa, esclusi dal consorzio sociale. Se vi diranno di sì, attenzione, vuol dire che quella persona ha delle, non lo è forse consapevolmente, però ha un modo di pensare, ha un'ideologia molto vicina a quella del passato regime. Lo voglia o non lo voglia, può darsi che non lo vuole, può darsi che non ne è consapevole, però come sapete, diceva un grosso studioso, esistono i fascisti consapevoli e i fascisti non consapevoli che stanno in mezzo a noi e escono fuori quando c'è da parlare su un contenuto, cioè esprimono un modo di pensare che è tipico di quel modo di pensare, di quelle che però non si definiscono tali e pensano di essere persone libere, chi crede di essere liberale, addirittura chi crede di essere progressista, e allora quella era un po' una cartina di tornasole. Se voi andate in giro con questa frase dicendo esclusi dal consorzio sociale, domandando in giro, ma secondo te è una buona definizione per definire appunto le persone detenute? E se chi vi dice di sì, cioè, ditegli che deve fare, o ditele che deve fare un percorso di riabilitazione, perché ha un'impostazione mentale molto vicina a quella del regime fascista. Thank you. Allora, dicevamo il 31, quindi ci vediamo sotto Re Bibbia, al quel posto lì, abbiamo detto all'angolo tra via Raffaele Maietti e via Bartolo Longo, a partire dalle 10 fino a circa le 4 del pomeriggio. E che cosa faremo? Intanto ci saranno, appunto, chi non ha preso la scarceranda la può trovare lì, anzi è uscita, quindi portatela. Anche lì c'è un tentativo di fare nella scarceranda di quest'anno nel libro che accompagna l'agenda scarceranda, di fare il punto su quello che è successo, vedere gli aspetti più gravi, cioè il punto. E su quel giorno, quel 31, ci vediamo e parleremo di tutto, oltre a mandare un po' di musica oltre le mura e fare i saluti alle persone carcerate. Però vorrei riflettere un po', e le cose da riflettere sono tante. Giunte a questo punto, al secondo decennio del nuovo millennio, dovremo capire, porci questi interrogativi molto pesanti. Che cosa significa oggi punire? Primo. Secondo, perché oggi si punisce? E terzo, chi si sceglie di punire? Ecco, questi tre interrogativi che da tempo immemore, diciamo, come dire, colpiscono l'immaginario, il pensiero, la mente delle persone che hanno una certa capacità di cercare di ragionare sul presente, sono molto importanti, perché questi, diciamo, la risposta, che non sarà una risposta secca, ma un sistema di pensiero, che perlomeno di come affrontare queste tre risposte, no? Che cosa significa punire, perché si punisce, chi si sceglie di punire. Ebbene, queste tre domande mettono in discussione il carcere oggi, anche perché sono proprio gli elementi che permettono di capire che il carcere ha fallito totalmente rispetto agli obiettivi che si era dato. Il carcere, quando il carcere, che poi è rappresentante della giustizia, perché appunto chi tradisce la legge viene messo in carcere, cioè è il carcere che secondo loro dovrebbe obbligare, comunque sollecitare, suggerire e anche obbligare le persone a rispettare la legge. No, è la sanzione, il carcere che è la sanzione principale. Bene, e hanno sempre detto che appunto il carcere, come dicono, come è scritto sui tribunali, sulle cattedre dei tribunali, la legge è uguale per tutti, quindi la sanzione è uguale per tutti, quindi il giudizio è uguale per tutti. E la risposta a queste tre domande che dicevo prima ci portano a contraddire questi principi, che pure erano quelli della giustizia, quando la giustizia moderna. Non è vero che è uguale, basta soprattutto l'ultima, chi si sceglie di punire. Bene, se noi vediamo la composizione delle persone in carcere in tutti i paesi, non solo in Italia, ma nemmeno solo in Europa, ma nemmeno solo in Occidente, in tutti i paesi, i regimi in atto, le giustizie in atto in quei paesi scelgono di punire soltanto ed esclusivamente alcune fasce sociali e non altre. Questo lo dice la composizione del sistema carcerario presente in ogni paese. Per esempio un dato che lo accennavamo l'altra volta, ma negli Stati Uniti d'America, partiamo dal punto più alto di persone carcerate, sia in termini in quantitativi che in percentuale rispetto alla popolazione. Gli Stati Uniti d'America hanno questo record di maggior numero delle persone incarcerate rispetto alla popolazione, anche in assoluto. Sono circa 2 milioni e mezzo di persone in carcere, proprio in carcere, dentro il carcere. E altre sono in misura, quelle si chiamano in misura alternativa, lì c'è il sistema della in prova oppure con la parola data, cioè sempre misure alternative, in tutto sono 6 milioni di persone sotto il controllo penale interno e esterno, 2 milioni e mezzo sotto controllo penale interno, cioè in carcere. Questa è la realtà del sistema carcerario statunitense. Bene, di questi 2 milioni e mezzo di persone in carcere, ben oltre l'80, quasi 90%, attenzione, sta in carcere condannata definitivamente senza aver subito un regolare processo. Chiaro questo? Quindi saltano tutti i criteri, e mo vedremo, vi spieghiamo perché. Saltano tutti i criteri su cui erano state fondate il sistema della giustizia, della sanzione e del carcere. Sì, come dicono tutte le costituzioni di tutto il mondo, nessuno può essere privato della propria libertà se non dopo una regolare sentenza. Una regolare sentenza viene dopo un chiaro processo che ha più atti, in genere 2 atti dappertutto, primo processo e appello, in qualche caso pure 3 e così via. Non è così per il semplice motivo che appunto in America, ma poi in America è il punto più alto, si sta sviluppando in tutti i paesi, in Italia è in accelerazione spaventosa, il fatto che una persona viene ritenuta dalla polizia, dalle forze dell'ordine, responsabile di alcune cose. Bene, scatta l'attività della procura, il procuratore nel luogo dove è avvenuto il fatto e fa un atto d'accusa. A quel punto entra la dialettica tra accusa e difesa, no? C'è un difensore, se non ha un soldi quello d'ufficio o comunque della persona imputata, ritenuta responsabile, e dall'altra parte l'accusa del pubblico ministero. Quasi sempre, cioè appunto nel 90% dei casi, questa dialettica tra accusa e difesa non passa attraverso il processo, perché lì che dice il PM al difensore, che accetta perché anche lui sa che vanno così, se affronta il processo, a meno che non ha una serie di prove smaccate per dimostrare l'innocenza della propria persona, subirà un processo molto lungo, durante il quale spesso rimane in carcere, oppure se non ha soprattutto da pagare la cauzione, cosa che in America sapete, o paghi la cauzione o rimani in carcere anche preventivamente. E poi il processo molto lungo, se finisce con la colpevolezza dell'imputato, gli viene dato il massimo della pena, perché gli fanno pagare, come se gli facessero scontare anche il tempo sottratto alla giustizia, gli fanno pagare tutto il costo del processo, e quindi stante questa prospettiva il PM suggerisce al difensore, che è pienamente d'accordo, di fare cercare il patteggiamento in cui la persona innocente o colpevole, questo no, non conta niente, ma si dichiara colpevole, collabora con la procura a stabilire il fatto, anche se non è vero, non ha fatto niente, lo ricostruisce con un po' di fantasia. Il giudice accetta questo patteggiamento, c'ha uno sconto di pena per il patteggiamento di un terzo, 30%, un altro sconto di pena di un altro 30% per aver collaborato col pubblico ministero, quindi alla fine fa il meno del minimo stabilito per quel reato, e quindi spesso pochi anni di carcere, e però questo diventa, la sentenza viene messa definitivamente senza che ci sia stato un regolare processo. Questa è la realtà. Quindi solo questo fatto in Italia non è il 90%, però sta crescendo enormemente. Domandate se ci avete amici avvocati, questo fatto del patteggiamento e dell'accordo tra difesa e accusa sta prendendo piede. Saltano tutti i presupposti. Questi sono i più importanti, i più grossi. Poi ce ne sono tante altre, no? Per esempio, il fatto del che cosa significa punire, la prima domanda che ci ponevamo, no? Allora, secondo alcuni studiosi, il più importante, che ha raccolto un po' tutte le elaborazioni di secoli, dice che la sanzione deve avere 5 caratteristiche. Il primo deve implicare una sofferenza, oppure altre conseguenze giudicate molto sgradevoli. Quindi deve far male, primo punto. Il secondo, deve rispondere ad un'infrazione contro regole legali, cioè deve essere data a chi ha infranto una legge, non un comportamento ad così qualsiasi. Terzo, deve applicarsi all'autore reale o presunto di quella infrazione. Quarto punto, deve essere amministrato istituzionalmente da persone, da esseri umani diversi dal contravvenente, da quello che da lui o da amici suoi. E quinto punto, deve essere imposto da un'autorità istituita dal sistema legale contro cui è stata commessa l'infrazione. Questo era un certo uno studioso, si chiamava Hart, che dal 50, nel 52 ha fatto un po' il riassunto di tutte le elaborazioni fatte sulle caratteristiche che deve avere la sanzione oggi, e ha tirato fuori queste cinque caratteristiche, poi molto spiegato, ognuna è un libro di 500 pagine, però insomma queste sono le caratteristiche da avere. A questo punto, detto questo, lui non è che l'ha inventato, lui ha detto: tutto ciò che si è scritto intorno alle caratteristiche della sanzione io ho raccolto, l'ho sintetizzato in questi cinque punti, questi sono, questo vuole la civiltà moderna per la sanzione, deve rispondere a questi criteri. E si domanda lui stesso: ma questi cinque criteri non fanno assomigliare molto la sanzione di uno Stato democratico, garantista, eccetera, a ciò che era nell'antichità la rappresaglia o la vendetta? Col punto interrogativo, cioè ha lasciato aperto questo dubbio. Non, detto così, cioè, deve implicare sofferenza o comunque cose altamente sgradevoli, deve rispondere all'infrazione, deve essere applicata all'autore, ovviamente poi tutte le caratteristiche che sono comuni, no? Deve essere inflitta da persone diverse da quelli che hanno sono contravvenute, è imposta da un'autorità e istituita a sistema legale. Cioè queste cose non rappresentano. Ora, la cosa, gli autori dicevano: noi gli diamo questo elemento esterno a colui che a me, cioè praticamente questo meccanismo della sanzione data dallo Stato, dalla giustizia che si fa terza parte, in realtà è stata istituita per espropriare le due persone, vittima e carnefice, chiamiamole così, cioè quello che ha fatto l'infrazione e la persona contro cui l'ha fatta, mettiamo il furto, no? Il ladro che ruba, il ladro lo chiamiamo A, che ruba un altro che si è rubato e si chiama B. Ecco, questi due soggetti vengono espropriati dallo Stato che amministra la giustizia, che prende su di sé il conflitto che si è scatenato tra queste due persone, impedendo a loro di risolvere la questione. Dice: lo risolvo io la questione con i miei strumenti, con i miei addetti, con i miei funzionari, perché altrimenti assomiglierebbe troppo alla rappresaglia o alla vendetta. Quindi è proprio per allontanarsi dalla vendetta che è successo qualcosa che invece si avvicina da un altro punto di vista e sempre più alla vendetta. Questa è la tragica, come dire, situazione in cui ci troviamo. Tutto questo condito con quanto poi qualche linguista è andato in soccorso di questi teorici, giuristi che si ponevano queste domande, dicendo: guardate che il vocabolo punizione viene dal latino punire o punire. Punire o punire vuol dire semplicemente castigare, vendicare, quindi la parola stessa ci riporta al fatto che la vostra sanzione, la vostra punizione è molto simile alla vendetta. E quindi, perché appunto dentro di sé c'è la sofferenza, il tormento ed anche uno scambio, questo è un elemento fondamentale, perché difatti in alcune, per esempio nella lingua tedesca, la parola colpa si dice Schuld, che vuol dire, derivando, che deriva da Schulden, che vuol dire debito. Ossia, in molte culture precedenti, questa che poi diciamo si è assommata, quella classica romana che ha inglobato tutte le altre che provenivano in questi territori e quindi si è formato il diritto moderno. Però appunto, perché per esempio quella, la cultura tedesca, di tutte le popolazioni tedesche che poi sono approdate qui, anche qui in Italia, e che poi insieme hanno costruito il diritto moderno, appunto, beh, davano all'infrazione il concetto di debito, da cui appunto la parola colpa, no? Il debito vuol dire che tu, diciamo, facendo un'infrazione a una regola, diventavi debitore di quella comunità, di quella società, e quindi poi quel debito ti veniva, dovevi fare appunto tot di lavoro gratuito, oppure dovevi dare alcuni animali se facevi l'allevatore, o alcune frutti del terreno. Ecco, il debito che è rimasto ancora, anche questo è rimasto, perché in effetti ogni sanzione penale è accompagnata da una sanzione amministrativa chiamata adesso mia, cioè un tot di soldi da pagare per la sanzione che ti viene attribuita. Bene, comunque, per dire, come vedete, sono tante le questioni, sia di carattere concreto materiale, no? Che il sovraffollamento, i problemi dei suicidi, delle morti in carcere, delle questioni che non si riescono nemmeno ad affrontare, pensate se si riescono a definire, e poi questi grandi interrogativi che ci mettono, ci portano chiaramente l'idea che il carcere ha esaurito la sua funzione, semmai l'ha avuta, e praticamente ha fallito totalmente. Che significa questo? Che nel dare risposta a quelle domande